L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, bentornati all'Altro Pianeta. Questa settimana continuiamo a parlare di recupero e di riciclo dei materiali, in particolare parliamo di metallo. È nostro ospite il direttore generale di Anfima, Giovanni Cappelli. Benvenuto, ben ritrovato all'Altro Pianeta. Grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Finalmente è arrivato un sigillo speciale che certifica l'ecosostenibilità ambientale degli imballaggi metallici in acciaio e alluminio. L'avete chiamato Metalleco, giusto? Metalleco, esattamente. Ma come mai non c'era fino a questo momento un marchio di questo tipo? Questa è una bella domanda, perché forse i contenitori, tra l'altro hanno una storia, perché l'invenzione delle scatole per conserve risale a più di 200 anni fa, al 1810, quindi è forse un contenitore che noi abbiamo sempre avuto sulle nostre tavole, nelle nostre dispense o con altre forme, tipo le bombolette aerosol, le scatole per vernici o le lattine per bevande anche in tante altre circostanze, però non era venuto forse il bisogno di spiegare al consumatore che è un contenitore veramente ecosostenibile, perché è riciclabile al 100% infinite volte. E questa è una peculiarità, oggigiorno forse si parla molto di sostenibilità e di riciclabilità, ma questo, il metallo ha veramente il grandissimo pregio di essere riciclabile al 100% all'infinito, cioè veramente un chilo di imballaggi usate, di rottame, di barattoli, di appunto scatolette, lattine, dà vita a un chilo di acciaio o un chilo di alluminio. Con tutto vantaggio, no, dell'ambiente nel quale viviamo, tra l'altro. E quindi nasce questo marchio, lo vediamo già in giro, dovremo aspettare, cosa succede? Abbiamo introdotto sperimentalmente qualche mese fa con la collaborazione di un paio di aziende utilizzatrici, lo abbiamo presentato alla nostra assemblea che si è stata a Firenze a fine maggio e adesso è in corso la diffusione, questo marchio Metalleco si chiama, appunto, giusto per rendere la riciclabilità, l'aspetto ambientale dei contenitori in metallo. È in fase di diffusione, di divulgazione, per cui speriamo che le aziende utilizzatrici dei contenitori, dei barattoli e scatolette in metallo si facciano poi partecipi e promotori, perché si tratta ovviamente in questo di informare tutti i consumatori di questi grandi pregi dei contenitori metallici. Perché nasce da una vostra desiderio di mettere questo, di apporre questo marchio, ma non tutti i produttori sono ancora partecipi del movimento, quindi? Ma i produttori sono partecipi informati, però si tratta ovviamente di trovare anche un'intesa con gli utilizzatori. Ora su questo non dovrebbe esserci problema, però il problema nasce qualche volta dallo spazio che c'è o che magari non c'è su una scatola, per cui non sarà immediata la cosa, ma noi speriamo che si possa fare nell'arco di breve tempo. Questo marchio Metalleco non distingue che tipo di contenitore è, cioè se acciaio, alluminio, ma dice semplicemente contenitore riciclabile, questo vuol dire? Questo vuol dire contenitore appunto riciclabile, ma non solo riciclabile, perché poi tutti i contenitori bene o male in parte sono riciclabili. Questi, i contenitori in metallo, in acciaio e in alluminio, sono appunto riciclabili al 100%, e questo vuol dire veramente all'infinito. Dunque, invece, come si comportano gli italiani nella fase del riciclo? Insomma, sono bravi, non sono bravi, possono far di più? Diamo merito agli italiani, perché ovviamente dipende molto dalle zone, si riciclano oltre i tre quarti dei contenitori in acciaio, quindi se abbiamo 75,9% di riciclaggio degli imballaggi in acciaio nel 2011, un po' meno per l'alluminio, siamo vicini al 60% comunque, ma sicuramente l'acciaio è per certi versi più semplice, perché anche dove non c'è alle volte raccolta differenziata è abbastanza facile estrarre l'acciaio dal flusso dei rifiuti, anche magari di quelli delle zone in Italia che non hanno raccolta differenziata, dove magari mandano in discarica o hanno un impianto di incenerimento, è però abbastanza semplice con un magnete separare i contenitori in acciaio, poterli estrarre e riciclarli. Quindi il dato italiano è comunque ottimo, anche perché la media europea è molto vicina a questo dato, siamo credo al 71-72%, la nostra industria comunque a livello europeo sta proponendosi, naturalmente però ci vuole la collaborazione degli stati e degli enti pubblici, comunque si sta proponendo di arrivare all'80% di tasso di riciclo entro la fine di questo decennio. Sappiamo bene che, perché l'abbiamo detto più volte nel corso di questa trasmissione, che non è importante solo raccogliere, che i cittadini facciano quindi la loro parte, ma anche poi dopo avviare a nuova produzione, insomma a rimettere sul mercato quello che si raccoglie. Nel caso del metallo e poi nelle sue due parti di cui abbiamo parlato finora, l'acciaio e l'alluminio, c'è questo mercato? Si riesce? Funziona? Oppure ci sono degli intoppi? Ma devo dire funziona piuttosto bene. Tant'è vero, giusto qualche dato soprattutto sull'acciaio, che ha certamente una rilevanza numerica molto più alta. In Italia ogni anno, adesso forse quest'anno 2012 sarà un po' di crisi, ma insomma si producono circa 30 milioni di tonnellate di acciaio. Si utilizza un rottame per circa 20 milioni, più di 20 milioni di tonnellate, quindi voglio dire, sì, giusto per dare qualche numero, la produzione di imballaggi in acciaio è di circa 500 mila tonnellate, per cui le 350 rotte che si riciclano ogni anno trovano facilmente una destinazione, ci sono svariati impieghi, insomma l'acciaio ritorna, acciaio come l'alluminio ritorna alluminio, e permette a questi contenitori, a questi materiali di essere veramente considerabili come delle risorse permanenti per la terra. Ecco, questo è un termine che ci piace utilizzare, perché ci sono, fanno parte del ciclo di produzione e ci saranno grazie al riciclaggio per sempre, per cui metallo risorsa permanente. Metallo risorsa permanente, che quindi non ha risentito troppo della crisi per ora almeno? No, fino a questo momento no, tant'è vero che le quotazioni anche dei rottami, poi naturalmente soprattutto per quello che riguarda l'acciaio ci sono decine di utilizzi del materiale, però direi le quotazioni del rottame si sono mantenute a buoni livelli, quindi c'è ancora una domanda più che sufficiente. Beh, speriamo che tenga, insomma, visti i tempi, però in realtà il rottame qui può essere una vera risorsa per mantenere vivo tutto il ciclo. Naturalmente permette di mantenere vivo il ciclo, permette di non utilizzare delle materie prime, quindi comunque limitare l'estrazione di risorse dalla terra, permette un risparmio di emissioni in atmosfera, insomma l'acciaio soprattutto l'alluminio, che permette un grandissimo risparmio di energia, perché in questo caso la produzione di alluminio secondario, quindi utilizzando il rottame, permette un risparmio del 95% dell'energia utilizzata rispetto alla produzione di alluminio da bauxite. Senta, a proposito appunto di materiale che raccogliamo e che quindi evitiamo di produrre, ma lo utilizziamo tutto internamente in Italia, lo portiamo all'estero, ad esempio come avvenne per la carta? No, l'Italia, troviamo un pieno utilizzo in Italia del rottame italiano, anzi tant'è vero che la bilancia commerciale è ancora leggermente, per quanto ne so, insomma in squilibrio, quindi siamo più importatori di rottame che esportatori, e per questo a maggior ragione. Da dove lo prendiamo? Vari paesi europei. Europa comunque, soprattutto. Sì, prevalentemente Europa, comunque è un... A questa maggior ragione, dico, questo rottame che viene in fondo da scatolette, lattine, barattoli, fusti, insomma è un materiale controllato, un materiale interno, un materiale che insomma certamente è pienamente riciclabile e con tutte le garanzie di sicurezza, per questo è sicuramente un materiale che ha un mercato e che ha un pieno apprezzamento. Quindi se riuscissimo a recuperare ancora qualcosina in più raggiungendo quegli obiettivi di cui diceva prima, forse potremmo lentamente fare a meno di cercare all'estero. Aiuterebbe. Arriveremmo ad annullare le nostre importazioni, però insomma tutto quello che c'è, ecco, farebbe bene. Perché siamo grandi consumatori, diciamo. Continuiamo a consumare. Continuiamo a consumare. Almeno. Sì, acciaio in tutte le sue accezioni, naturalmente, non solo per imballaggio, parliamo in tutti i sensi, però sì, c'è sempre una produzione che si mantiene a dei livelli più che discreti, per cui insomma il rottame trova un buon utilizzo. Senta, allora adesso abbiamo il marchio e va bene, speriamo che la gente impari a riconoscerlo, che si diffonda e che si diffonda anche la coscienza della possibilità di recuperare questo materiale, quindi di non abbandonarlo. Come si fa però a, diciamo, portare in tutto il paese allo stesso livello di raccolta del rottame? Ma intanto, ne accennavo prima, sarà difficile, pian piano, insomma, gradualmente evidentemente tutto il paese aumenterà la raccolta differenziata. Nel caso comunque dei contenitori in acciaio soprattutto, più che quelli in alluminio, anche se la cosa vale in parte anche per l'alluminio, la raccolta differenziata è sicuramente un mezzo, ma non è il fine ultimo, nel senso che questi contenitori possono essere comunque separati, estratti dal ciclo dei rifiuti. Certamente ci vuole, comunque è utile la raccolta differenziata, perché permette una più facile separazione, un più facile trattamento, l'ottenimento di materiale di qualità più pregiata. Quindi è necessario, è indispensabile avere la collaborazione delle autorità locali che attivino una raccolta differenziata per incrementare ancora di più questi dati. Però per esempio in città come, sappiamo, Napoli o anche recentemente Roma, dove la raccolta differenziata purtroppo stenta a decollare, il riciclaggio degli imballaggi in acciaio comunque c'è. Può essere migliorato, ma c'è, proprio perché viene raccolto dal ciclo dei rifiuti comunque, che è destinato in discarica. C'è un qualche cosa di cui sentite la necessità e che dovremmo fare come paese, come anche da un punto di vista legislativo, normativo, potremmo migliorare? È difficile intervenire a livello coercitivo, perché l'industria, grazie al sistema CONAI, grazie agli effetti del decreto Ronchi, comunque si è attivata e, almeno parlando naturalmente per i metalli, si è costituita delle strutture che stanno operando molto bene, che stanno veramente ottenendo il meglio di quanto è possibile. Certo, quello che spiace un po' magari è vedere che ci sono dei materiali riciclabili come il nostro che non vengono valorizzati a sufficienza, mentre magari ci sono dei materiali, soprattutto quelli che sono materiali multimateriali, composti da più strati di diverse sostanze, che sono scarsamente o riciclabili o, per dire, per nulla, che comunque non vengono in nessun modo penalizzati, ecco, per così dire. In fondo non premia così tanto l'essere amici dell'ambiente da questo punto di vista. Quindi bisognerebbe riequilibrare in questa direzione? Bisognerebbe riequilibrare anche a livello di informazione, ma anche forse a livello normativo, il fatto di avere magari delle tasse, dei contributi più elevati per quei materiali che non vengono riciclati o lo vengono in maniera molto assolutamente marginale. Allora, io la ringrazio davvero tanto per essere stato con noi. È stata una piacevolissima chiacchierata, credo, spero utile per informare i vostri ascoltatori. E adesso ci sono le informazioni per il traffico, poi torniamo insieme per parlare di oli usati e di un modello che la Cina vuole copiare. L'altro pianeta. Buon pomeriggio, bentornati a questa seconda parte dell'altro pianeta. Nella prima ci siamo occupati di Metalleco, il sigillo di ecosostenibilità, di riciclabilità, che d'ora in poi vi potrà capitare di vedere sugli imballaggi metallici. Ne abbiamo parlato con Anfima, che è l'associazione nazionale tra i fabbricanti di imballaggi metallici ed affini. Adesso cambiamo argomento, pur restando in tema di recupero e riciclo. Ne parliamo con il consorzio obbligatorio degli oli usati, il COU, che in questo momento è in grandi trattative con la Cina, cui sta offrendo la soluzione italiana al problema dei lubrificanti. Ne abbiamo parlato con il presidente del COU, Paolo Tomasi. Molti cinesi arrivano in Italia per guardarsi intorno, per vedere, per capire, eccetera. Alcuni di questi hanno incontrato il consorzio, nel senso che si sono imbattuti in questa struttura che evidentemente aveva un qualche cosa di originale, un sistema integrato, un sistema che integra una filiera in pratica, dalla raccolta dell'olio usato fino al suo riutilizzo attraverso il sistema di rigenerazione. E questo si è concretizzato con un invito che ci è arrivato per partecipare ad un congresso che organizzava una certa CRRA, che vuol dire China National Resources Recycling Association, che in pratica è un po' il nostro in grande, il nostro corrispondente, il nostro omologo. Quindi questo invito diciamo lo abbiamo meditato al nostro interno, e poi in occasione di un incontro che abbiamo avuto con il ministro, noi abbiamo due ministeri che controllano il nostro operato, sono il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico. Parlando con il ministro Clini, lui è un entusiasta della Cina e tra l'altro recentemente era stato in Cina, e ha detto: entrerete nel protocollo che abbiamo siglato con i cinesi, e quindi anzi mi fa molto piacere, perché ovviamente è un settore di interscambio interessante sul quale possiamo dire la nostra. Con queste credenziali siamo partiti, una delegazione molto ristretta costituita da raccoglitori, rappresentate tre società più l'associazione di categoria, e due responsabili della più grande società di rigenerazione italiana, raffinazione italiana, che è la Viscolube. Sì. E ovviamente sul posto poi abbiamo avuto l'appoggio istituzionale, nel senso che il console generale De Luca ci ha messo a disposizione un suo collaboratore che è l'attaché commerciale, e il quale è stato con noi a questo convegno che si è tenuto a Danqing, una città che si trova diciamo nell'oriente interno cinese, a circa 700 chilometri da Shanghai. Si vedono ancora qualche casa sparsa antica, un po' di periferie malmesse, però il centro è a grattacieli e grosse realtà luccicanti, sistemi di comunicazione eccezionali con l'alta velocità che hanno avuto prima di noi. L'albergo dove eravamo ospitati, dove si realizzava questo convegno, è un albergo di tipo un po' monumentale, no? Ma con tutti i comfort. Poi è cominciato il nostro convegno, sono cominciate le prime relazioni, e lì abbiamo tirato un sospiro di sollievo, nel senso che le cose che presentavano, tutto sommato, le conoscevate già tutte. Ed erano delle cose che noi abbiamo abbandonato da un po' di tempo, oppure delle tecnologie, chiamiamo così, superate. Allora, tirato questo bel sospiro di sollievo, ci siamo fatti la nostra relazione, e direi che è stata molto molto oggetto di interesse da parte dei partecipanti. E poi ovviamente l'altro aspetto importante è che abbiamo siglato un memorandum of understanding, in pratica un accordo di collaborazione che ovviamente è interessante per noi, è interessante per loro, con degli obiettivi ben definiti. Adesso ci siamo presi tra l'altro 3 mesi le due delegazioni per ciascuna esprimere una propria idea di piano operativo, che poi sarà approvato, e poi se saremo d'accordo sui temi di sviluppo andremo avanti in queste novità. In prospettiva questa intesa con la Cina, quindi questa possibilità di dialogo eccetera eccetera, può riportare, brava, può ridarvi anche l'obiettivo che io mi propongo, è proprio questo. In pratica in Italia ci sarà meno lavoro, abbiamo un bel know-how da mettere a disposizione, cerchiamo di valorizzarlo da qualche altra parte, e magari cerchiamo di avviarci quelle imprese che in Italia non troverebbero più uno spazio adeguato per la loro espansione. Ma in Italia il calo è dovuto a cosa? Allora, non so se lei controlla mai il carter della sua autovettura, se lo controllasse si accorgerebbe che non consuma olio. Poi anche l'industria, che è l'altro 50% del consumo di lubrificanti, e quindi impianti idraulici, turbine, trasformatori, compressori, circuiti in generale, eccetera, che sono nell'industria, anche questi consumano molto di meno, perché ci sono meno perdite, perché ci sono tecnologie meno energivore, insomma tutte queste cose ci portano in qualche maniera ad una contrazione dei consumi. A questo punto diamo spazio a Mr. Kilowatt e il bentornato Maurizio Melis. Si chiama effetto Hilux ed è la nemesi della prima generazione di biocombustibili. Hilux sta per Indirect Land Use Change e indica il fatto che quando occupate una superficie con una nuova coltura destinata alla produzione di biocombustibili, scalzate la precedente. Quest'ultima va in cerca di un nuovo terreno, scalza una nuova coltura e così via. Così anche attraverso molti passaggi intermedi quel nuovo fabbisogno di superficie finisce per riversarsi su una superficie non coltivata, torbiere, pascoli, foreste e così via. Ma il semplice fatto di arare un terreno vergine innesca potenti emissioni di CO2. Risultato, se considerate l'effetto Hilux, molti biocombustibili della prima generazione, soprattutto il biodiesel, quello prodotto per esempio da olio di palma, hanno emissioni di anidride carbonica più elevate di quelle dei derivati del petrolio, insomma più CO2 dal biodiesel che dal gasolio. Al Forum Mondiale sulle Bioenergie ci si è chiesti come misurare l'effetto Hilux e come contrastarlo. La missione però non è delle più semplici. La legislazione europea per il momento non ne tiene conto e sembra che la nuova direttiva in arrivo sulla sostenibilità dei biocombustibili si limiterà, se no, a sfiorare il problema, almeno in una prima fase, per non compromettere investimenti industriali già avviati. La speranza però c'è e si chiama ricerca e sviluppo. I combustibili di seconda generazione, che per la verità stanno per arrivare sul mercato, cioè quelli in gran parte prodotti con residui di attività agricole e forestali convenzionali, oppure a partire da colture non food che si accontentano di terreni molto poveri, ebbene questo ridurrà il problema, mentre la terza generazione, che sposterà dalla terra al mare il luogo di coltivazione della biomassa, dovrebbe risolvere il problema una volta per tutte. Ma per questo c'è da aspettare non poco. Nel frattempo speriamo di limitare i danni. Articolo 9 adesso, che è la nostra rubrica che si occupa di tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della nazione, curata come sempre da Marco Carminati. Buongiorno da Marco Carminati. Siamo a Napoli, siamo in un rione particolare, il rione Sanità. Un rione che naturalmente è noto per la letteratura, diciamo così, Edoardo De Filippo, Totò, anche per certi problemi sociali. Però questo rione da qualche anno è finito sotto i riflettori. Perché? Perché sta succedendo una cosa straordinaria. Dei ragazzi del rione Sanità qualche anno fa si sono organizzati da soli e hanno creato una cooperativa per rilanciare le bellezze straordinarie che si trovano nel rione, le bellezze artistiche, archeologiche, culturali di questa parte di Napoli, che in realtà è una parte straordinariamente importante, che fa parte del centro storico e che oggi, grazie a questi ragazzi, sta per essere rivalutata nei percorsi turistici della città. Ne parliamo con Enzo Porzio. Buongiorno Enzo Porzio. Buongiorno a tutti. Ecco, Enzo Porzio è uno dei responsabili della cooperativa La Paranza, che è proprio la cooperativa nata per rilanciare e valorizzare questo patrimonio. Ecco, Porzio, mi racconti un momento come siete nati, come è nata questa esperienza? Allora, la cooperativa nasce nel 2006, siamo ancora, eravamo un gruppo di amici che ruotavano intorno alle basiliche di questo quartiere, perché le basiliche sono sempre state un centro di aggregazione, come succede anche in altri posti. E però queste basiliche custodiscono un tesoro storico artistico incredibile, e quindi ad un certo punto è nata una consapevolezza: abbiamo in questo quartiere qualcosa di straordinario e che dobbiamo far conoscere. E quindi abbiamo cominciato con attività, si può dire, amatoriali, di visita guidata al quartiere, alle catacombe, visite serali. Queste attività amatoriali diventavano sempre più conosciute e sempre più richieste, e quindi la cooperativa nasce proprio per dare una spina dorsale a queste azioni, che poi nel tempo sono diventate sempre più una rete di energie positive, che ci hanno fatto conoscere tanti amici che hanno cominciato a investire anche a fondo perduto in queste attività. Da un lato si valorizza il tesoro storico-artistico, che altrimenti andrebbe perduto. Certo. Dall'altro lato si investe sui giovani. Voi tra l'altro siete tutti giovani. Lei, Porzio, quanti anni ha? Io ho 27 anni. Ecco, siete giovanissimi e vi siete inventati un lavoro partendo da un patrimonio straordinario, lo avete ripulito inizialmente, l'avete presentato, eccetera, in pochi anni gestite tra l'altro uno dei luoghi più affascinanti di tutta Napoli, le catacombe di San Gennaro. Ecco, cosa sono le catacombe di San Gennaro? Le catacombe di San Gennaro sono un tesoro storico-artistico che custodisce una stratificazione che va dal secondo secolo dopo Cristo fino alle ultime acquisizioni contemporanee. E quando si entra nella catacomba di San Gennaro bisogna battere un po' il concetto che abbiamo un po' tutti di catacomba. Certo. Immaginiamo a qualcosa di molto piccolo, di angusto, dove un claustrofobico ha difficoltà ad entrare. Invece, entrando nelle catacombe di San Gennaro, ci accorgiamo che siamo entrati in una città sotterranea, non molto profonda, ma molto estesa, ricchissima di affreschi e di mosaici. E io ho vissuto recentemente questa esperienza emotiva e posso sottoscrivere totalmente quello che ha detto adesso Porzio. Il Rione Sanità è ricco di opere d'arte, abbiamo parlato di chiese, abbiamo parlato di catacombe, però anche di memorie culturali ancora vivissime, per esempio legate alla figura di Totò. Ecco, so che vi state organizzando anche in questo senso. Che cosa state tramando intorno a Totò nel Rione Sanità? Allora, intorno a Totò, ma è intorno a Rione Sanità, la cooperativa ha nella sua mission la promozione e la valorizzazione della propria tradizione, usi e costumi, e quindi come si fa a non parlare di Totò, che è nato proprio nel nostro quartiere? E quindi insieme al FAI abbiamo lanciato una campagna, in effetti abbiamo aderito al loro censimento di ogni anno, cioè i luoghi del cuore FAI. Quest'anno le associazioni del Rione Sanità hanno promosso appunto questo quartiere come luogo del cuore perché ha dato i natali a Totò, e quindi stiamo raccogliendo le firme sul sito dei luoghi del cuore. Se vinciamo, speriamo di sì, Totò è famosissimo, sarà realizzata un'opera dedicata a Totò nel nostro quartiere che ancora oggi manca, quindi sembra un po' strana questa cosa, però è così. Va bene, allora noi ci facciamo portavoce di questa vostra bellissima anche iniziativa finale, cercheremo di far votare per Antonio De Curtis in Arte Totò, quindi votiamo tutti Antonio, votiamo Antonio, e ci complimentiamo ancora con Enzo Porzio, che saluto, grazie. Grazie a voi. Per questa bellissima iniziativa civile innanzitutto, di promozione della propria città, della propria cultura e della dignità dei giovani che naturalmente nel nostro paese faticano spesso a affermarsi, a trovare lavoro. E a tutti gli ascoltatori un cordiale saluto. Vi ricordo, per scriverci c'è l'indirizzo l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto con Radio 24.